se poi non trovate, non trovate, e poi passa. Che giova il trova il re, che giova il trova il re, se poi non trova il re, non trova fe, non trova fe, ne suoi passà. E suoi vassalli non trova il re, non trova fe, e suoi vassalli, e suoi vassalli. Un trionfante allor, per lei suo gran splendor, per lei suo gran splendor, per l'altro mi fa. Per l'altro mi fa. Caution fante allor, per lei suo gran splendor, per l'altro mi fa. Per l'altro mi fa. Se poi non trova fe, non trova fe, e suoi vassalli, e suoi vassalli. Che giova il trono al re, che giova il trono al re, se poi non trova il re, non trova fe, non trova fe, e suoi vassalli. Ne suoi vassalli non trova il re, non trova fe, ne suoi vassalli, ne suoi vassalli.